2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ci buttiamo così nel mese di agosto, la nostra prima puntata del mese di agosto 2015. Benvenuti a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda durante l'estate, la domenica. Poi torneremo durante il nostro palinsesto autunnale già da settembre, nel fine settimana, già dal venerdì sera. Dunque, si tiene già da questo weekend, è iniziata, si protrarrà per buona parte di questa settimana, poi seguita da un'altra grande conferenza. Allora, una delle conferenze di security, di sicurezza informatica più importanti dell'anno al mondo, negli Stati Uniti, a Las Vegas. Si approfitta del fatto che gli alberghi non costano tantissimo, a Las Vegas, la Black Hat, conferenza molto importante, molto particolare, perché ci sono persone sia dal mondo delle aziende, sia dall'esercito, dal governo americano, ma anche personaggi particolari, strani. Se tra i nostri ascoltatori, non so, c'è chi partecipa alla Black Hat, beh, ci scriva e magari ci dia qualche informazione. Poi, subito dopo, si tiene DEF CON, che è un altro appuntamento sempre relativo alla sicurezza. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se ci saranno grandi notizie o se sostanzialmente le notizie sono solo per addetti ai lavori, ma di certo quello che verrà confermato, che già alla vigilia di questi appuntamenti viene confermato, che oramai tutti i settori, quasi tutti i settori della nostra vita quotidiana, della nostra economia, non sono esenti da attacchi informatici. Quindi l'attenzione e anche gli investimenti verso la sicurezza deve essere elevata. Questo è un tema di cui parliamo già da molto tempo, però diciamo che fino ad oggi grandi disastri al mondo non sono accaduti, anche se ci siamo andati vicino, anche in Italia, però mano a mano che tutto il mondo dipende dall'informatica, da programmi che girano nel cloud sui nostri computer, ma sempre più su computer che sono dislocati in rete, la sicurezza informatica diventa un tema sempre importante. Pensate che 2024, quando era un programma quotidiano dal lunedì al venerdì, dedicava una puntata alla settimana alla sicurezza informatica. Quindi già 15 anni fa ci occupavamo di questo tema, però l'evidenza ci dice, lo dicono insomma sempre i nostri esperti, che la cultura della sicurezza in generale, ma della sicurezza informatica, deve ancora entrare nella quotidianità, perché dobbiamo combattere anche con la nostra pigrizia. Torneremo sicuramente a parlarne già alla vigilia di questi appuntamenti, sia di Black Hat che di DEF CON. Alcuni hacker hanno dimostrato che si può già oggi prendere il controllo di un'automobile che è connessa alla rete, e questo ha messo in allarme molti esperti del settore, ma non solo. Sono state fatte dimostrazioni presa di controllo, di attacco anche di altre cose che girano, come ad esempio i droni. Insomma, il problema esiste e va affrontato. Oggi parleremo di Windows 10, perché sapete che questa settimana è stato lanciato ufficialmente in tutto il mondo Windows 10, ma come sempre iniziamo dalle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da due notizie che riguardano il settore auto. La Volkswagen ha annunciato che dalla prossima settimana arriveranno nei concessionari americani, quindi si inizia dagli Stati Uniti, le prime automobili compatibili con CarPlay e Android Auto, che sono i due sistemi di Apple e Google che permettono di utilizzare molte app, molte applicazioni e anche molte funzioni dello smartphone direttamente sul sistema di infotainment della vettura. Quindi uno entra in automobile, lo smartphone si connette automaticamente al sistema della vettura e noi possiamo pilotare, magari utilizzando dei tasti che abbiamo sul volante, molte delle applicazioni che si trovano sullo smartphone e alle quali siamo abituati. Uno può pensare agli scenari che si svilupperanno nei prossimi anni. Volkswagen, che è una delle case automobilistiche, diciamo che quasi tutte lo stanno facendo, c'è chi è più avanti e chi è un po' più indietro nello sviluppo di queste applicazioni, comunque punta ad introdurre questa tecnologia su tutte le nuove automobili che entreranno in gamma a partire dal prossimo anno. Digital News. La seconda notizia che riguarda il settore arriva da Panasonic. Da tempo la società si è focalizzata sul settore auto, anche se il nome Panasonic è un nome famoso per l'elettronica di consumo. Panasonic si è specializzata nelle batterie e anche nei sistemi elettronici di bordo. Però pensate che questa divisione vale oramai più di quella dell'elettronica di consumo, che continua a soffrire di vendite in calo. È, diciamo, un segno dei tempi, sia perché nel settore consumer electronics i margini sono sempre più ristretti in generale, non solo per Panasonic, sia per la crescita dei produttori cinesi che stanno mettendo in difficoltà sia i giapponesi che i coreani. A proposito di coreani, non è un caso che negli ultimi conti presentati in settimana da Samsung, gli ultimi conti indichino un calo dei profitti dell'8% nell'ultimo anno, con un crollo del 38% di quelli relativi alla telefonia mobile e del 72% di tutta la consumer electronics. I Galaxy S6 non vendono come sperato e per i prossimi mesi Samsung tenterà di correre ai ripari abbassando il prezzo dei Galaxy. Digital News. Chiudiamo con due notizie che riguardano il settore televisivo in Italia. La prima è l'accordo fra TIM e Netflix, i cui contenuti in streaming si vedranno anche sui decoder TIM Vision. Ricordiamo che Netflix aprirà il servizio in Italia a metà ottobre, noi diciamo il 12 di ottobre, e sarà visibile su tutti gli smart TV collegati ad internet. E l'altra notizia riguarda il digitale terrestre, perché fa notizia l'accordo definitivo fra Viacom, l'americana Viacom, e Sky Italia, che acquisterà così MTV, cioè il canale 8, i diritti per trasmettere sul canale 8. Dunque, dopo Cielo e Sky TG24, che sono già in onda sui canali 26 e 27, salgono così a 3 i canali di Sky in chiaro sulla TV tradizionale. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, parleremo di Windows 10 tra poco, quindi rimanete con noi, ci risentiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Prima di parlare di Windows 10, che è stato lanciato ufficialmente questa settimana, parliamo di intelligenza artificiale. A gennaio ci siamo occupati del tema, molto importante, raccogliendo l'appello fatto da una serie di scienziati che avevano scritto una lettera per sollecitare un dibattito sulle conseguenze dell'uso di intelligenza artificiale. Anche Bill Gates aveva detto che bisogna stare attenti, bisogna valutare attentamente le conseguenze prima che sia troppo tardi. Chissà se l'umanità riuscirà a valutare le conseguenze dell'uso dell'intelligenza artificiale. Allora, ancora questa settimana da Buenos Aires, dove si è tenuta la International Joint Conference on Artificial Intelligence, quindi una conferenza sull'intelligenza artificiale, la capacità delle macchine di prendere decisioni autonome, di imparare. Allora, da questa conferenza arriva un appello analogo relativo in modo particolare all'uso delle armi automatiche, le armi intelligenti. Allora, questo appello, che è nato in seno al Future of Life Institute, è stato firmato da quasi 20.000 persone su internet, tra loro c'è anche Stephen Hawking, Steve Wozniak, che è il fondatore di Apple con Steve Jobs, Elon Musk, che ha donato, pensate, 10 milioni di dollari per lo studio di questo tema. E però tra queste 20.000 persone, 2.500 sono scienziati, e tra i primi firmatari c'è la professoressa Francesca Rossi, che è docente di informatica all'Università di Padova, che a gennaio ci aveva spiegato il motivo di questa lettera e di questo appello. La lettera è stata scritta soprattutto per dimostrare che la comunità scientifica vuole un approccio costruttivo a questi temi, che sicuramente sono da considerare, cioè dell'impatto dell'intelligenza artificiale e della tecnologia in generale sulla società, sull'economia. Quindi la lettera è molto breve e dice semplicemente che la ricerca deve costruire delle macchine, sì, sempre più intelligenti, ma anche con attenzione agli aspetti etici, agli aspetti di impatto sulla società, perché uno degli ingredienti principali di una macchina intelligente è che possa prendere delle decisioni da sola, cioè che sia autonoma. Quindi questo vuol dire che le decisioni verranno prese sulla base di un codice che il programmatore inserirà all'inizio, ma spesso le macchine intelligenti modificano il loro comportamento usando degli algoritmi che si chiamano di apprendimento automatico, e cioè cercano di migliorare sempre di più le proprie decisioni sulla base dell'esperienza che hanno nel corso del tempo e delle nuove situazioni che si trovano ad affrontare. Quindi noi vogliamo essere sicuri che queste macchine possano essere autonome, prendere decisioni, e sicuramente le prenderanno anche molto meglio degli umani e riusciranno quindi a dare delle ripercussioni molto positive anche, però vogliamo che ci sia una qualche attenzione effettivamente alla verifica, alla validazione che queste macchine siano così sicure. Un tipico esempio è quello, no, delle auto che guidano da sole senza bisogno di un umano che le guidi. La tecnologia è già molto avanti in questo campo e queste auto sicuramente saranno molto più sicure dei guidatori umani, perché non si stancheranno, non scriveranno sul telefonino quando guidano, non si addormenteranno, eccetera. Quindi ci sono tantissime vittime degli incidenti stradali a causa di queste motivazioni, quindi le macchine sicuramente salveranno tantissime vite, però bisogna essere sicuri appunto che ci sia un livello di sicurezza alto, più alto di quello umano. Allora, l'intervista integrale è nella puntata del 30 gennaio di 2024, sono parole ancora molto attuali, mi sono messo in contatto con la professoressa Rossi, ma per motivi vari di fuso orario, proprio perché c'era questa conferenza a Buenos Aires, impegni vari, viaggi eccetera eccetera, non siamo riusciti a sentirci, ma appunto avrebbe probabilmente detto cose molto simili, però ci siamo dati appuntamento fra qualche giorno o qualche settimana, visto che rientrerà a breve in Italia dopo un anno sabbatico negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, per parlare proprio di questi temi che sono molto importanti e, ripeto, di estrema attualità. Comunque ne abbiamo parlato il 30 gennaio, quindi nella puntata potete ascoltare l'intervista integrale. Allora, l'appello in questo caso relativo all'uso delle armi automatiche dice sostanzialmente alla comunità internazionale che lo sviluppo di armi che possono decidere autonomamente chi e come colpire senza l'intervento umano rappresenta una terza rivoluzione nel campo delle guerre dopo l'introduzione delle armi da fuoco e quelle nucleari. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del nuovo Windows che è stato lanciato questa settimana, e con noi Evita Barra, che è responsabile della divisione Windows in Microsoft Italia. Benvenuta. Grazie. Partiamo dalle novità generali, più che quelle particolari che magari sentiremo e ascolteremo tra poco. La prima è che questo sistema è gratuito per tutti quelli che oggi hanno un computer che ha o Windows 7 o Windows 8.1, che è una novità abbastanza importante, perché fino ad oggi per voi il sistema operativo è stato un modo per guadagnare molti soldi. Diciamo che la divisione Windows era una di quelle, cioè è ancora oggi una di quelle molto importanti per Microsoft, perché il sistema operativo costava. Allora, effettivamente è un'importantissima novità ed un messaggio molto forte che l'azienda ha voluto dare per il lancio di Windows 10. Il modello di business però non cambia, perché il modello di business si basa su un ecosistema che è fatto dai produttori di device, di dispositivi, che da partire da fine agosto inizieranno a lanciare tutti i dispositivi che nativamente porteranno Windows 10, iniziando da PC e tablet. Quindi semplicemente un computer con sopra Windows, esatto, che pagano a Microsoft. Con tutto il modello di business, diciamo, fino ad ora conosciuto, piuttosto che diciamo l'ecosistema degli sviluppatori delle applicazioni, che avranno a disposizione uno store unico per miliardi di dispositivi in tutto il mondo, piuttosto che tutti quei servizi basati su Windows che vengono invece destinati alle aziende per le quali Windows 10 nella modalità enterprise o education non saranno gratuite. Quindi ci sono ovviamente delle differenze. Allora, diciamo che per chi ha un computer con Windows 7 o Windows 8.1, anche un computer che uno potrebbe acquistare domani con ancora questo vecchio sistema operativo, lo potrà aggiornare gratuitamente per un anno. Sì, per un anno avrà la possibilità di scaricare l'aggiornamento gratuitamente e resterà gratuito a vita. A proposito di questo aggiornamento, è io penso anche solamente per motivi di sicurezza fortemente consigliato. Al di là del fatto che è nuovo, allora è nuovo, è fortemente innovativo, è molto sicuro. Porta dentro sé questo concetto di servizio, perché resterà aggiornato, sicuro e protetto col collegamento classico a Windows Update per sempre, fino a che l'hardware lo supporterà, e quindi hai la possibilità di avere su macchine che tu hai già in casa. Non c'è bisogno di comprare necessariamente un nuovo hardware per il sistema operativo. È ovvio che se vuoi tutte le nuove caratteristiche, le nuove innovazioni, i nuovi dispositivi accoglieranno meglio queste funzionalità. Certo. Però sostanzialmente è un sistema operativo leggero, facile da scaricare, nuovo e sempre sicuro, protetto e aggiornato. Sì, diciamo che è molto meno vero oggi rispetto a qualche anno fa, che quando uno installa su una macchina di qualche anno, non una macchina nuovissima, il nuovo sistema operativo, si rallenta tutto, si pianta tutto. Bisogna reinstallare tutto. Invece tutto quello che si ha ad oggi sul computer con un sistema operativo precedente sarà compatibile immediatamente, senza dover scaricare nient'altro che il sistema operativo Windows 10. Quali sono, al di là appunto delle novità specifiche e puntuali, le altre novità di concetto a livello generale? Allora, Windows 10 porta un connubio tra la tradizione di altri sistemi operativi come Windows 7, alcuni elementi di Windows 8 e delle importanti innovazioni che arrivano in parte dal mondo smartphone, dal mondo Windows Phone, come l'integrazione di Cortana, che è un assistente virtuale utile sia per il tempo libero ma anche per la produttività, perché è un assistente, ti suggerisce delle cose in base alle tue abitudini, perché impara seguendo le tue abitudini. Puoi attivare la ricerca sia testualmente sia con la voce, con Cortana, che ovviamente è ottimizzata ed integrata nel sistema operativo e quindi va a cercare in tutto il mondo residente e anche nel mondo collegato ad internet. Abbiamo un nuovo browser internet, si chiama Microsoft Edge, che porta delle importanti novità nell'ottica della personalizzazione, perché io potrò sempre scegliere un'opzione di visualizzazione delle pagine molto pulita, modalità libro, giornale, senza avere tutti quei menu e quei comandi a cui sono abituata. Potrò personalizzare con note, appunti, evidenziatore, utilizzando il touch per inaudito. Internet Explorer, ciao ciao. Internet Explorer è stato, diciamo, con Windows 10 rinnovato. Messo nelle pagine di Wikipedia, cioè nella storia di... Sì, resterà comunque Internet Explorer, perché per esempio nell'ambiente aziendale, nell'ambiente professionale Internet Explorer rimane con modalità tradizionale, mentre Microsoft Edge usufruisce di queste innovazioni date dallo schermo touch, per esempio, piuttosto che da nuovo modo di sviluppare le applicazioni, che sono molto più pulite, più fruibili. Senti, è un sistema operativo, è corretto dire che è un sistema operativo completamente nuovo, o è un sistema operativo che nasce da Windows 7 8.1, diciamo l'ultima versione, con molti miglioramenti? Allora, è sempre molto difficile fare questa distinzione. Questo è un sistema operativo che è stato sviluppato negli scorsi 5 anni e quindi ovviamente prende degli elementi molto positivi che gli utenti gradivano particolarmente di precedenti esperienze di sistema operativo, e poi grazie a innovazioni hardware, innovazioni software, monta su delle novità. Quindi direi che è una tradizione, innovativa di un sistema operativo che poggia su qualche cosa di riconosciuto e familiare e poi ci porta a tutta l'innovazione possibile. Ecco, a proposito di cose familiari, ci sono alcune cose nuove, quindi alcuni passi in avanti, ma c'è anche un passo indietro, cioè avete rimesso una cosa che aveva un po' destabilizzato molti utenti. Sì, è il look vintage di Windows 10, quindi abbiamo il ritorno dell'icona Start, che sembrava imprescindibile per gli utenti che utilizzavano i sistemi operativi Windows, un po' la copertina, una roba di 20 anni fa. La copertina di Linux, quindi torna il tasto Start, ritorna il menu diciamo che ti porta i tuoi programmi preferiti, le tue scorciatoie, i file utilizzati di recente, le applicazioni che si aprono a finestra, quindi ci sono degli elementi più, diciamo, di tradizione, più storici di Microsoft, però sono stati richiesti a gran voce, era un peccato non ascoltarlo. Voi con questo nuovo sistema operativo tentate di mantenere la leadership nel settore desktop, dove avete una percentuale molto forte, una penetrazione del 90% circa, e tentate di guadagnare qualche quota di mercato invece in un mondo dove la vostra quota di mercato è molto bassa, cioè negli smartphone. Sì, perché l'obiettivo è piuttosto ambizioso, quindi nei prossimi due anni e mezzo l'azienda ha dichiarato che desidera avere 1,5 miliardi di dispositivi Windows 10. Per questi volumi ovviamente si parte dai PC e dai tablet, per poi arrivare agli smartphone, ma stiamo parlando anche di Xbox, stiamo parlando anche di dispositivi che non hanno neanche uno schermo, come quelli che servono per l'internet delle cose, fino ad arrivare a schermi giganteschi come il Surface Hub, piuttosto che ai PC olografici di Microsoft HoloLens. Quindi il vero obiettivo è riuscire a essere un sistema operativo universale che tocchi più utenti possibili, quasi prescindendo dal tipo di dispositivo che utilizzano. Ecco, questo è importante. Oggi però Windows 10, ma potremmo chiamarla anche solo Windows, perché mi sembra di capire che questa è l'ultima versione, non ci sarà più Windows 11, 12, 13, ci sarà Windows, punto e basta. Oggi è nuovo per i computer. Per gli smartphone non ancora, giusto? No, nei prossimi mesi, proprio perché la gamma di dispositivi dove vogliamo arrivare è molto ampia. Da oggi PC e tablet. Nei prossimi mesi, intorno all'autunno, Windows 10 atterrerà sugli smartphone, atterrerà su Xbox e poi a seguire su tutti gli altri dispositivi che abbiamo citato. Allora, avere un unico sistema operativo, che cosa significa? Al di là del fatto che tu sei responsabile non più solo del mondo PC, ma anche degli smartphone. Però al di là di questo, che cosa significa avere un unico sistema operativo su tutti questi strumenti terminali che chiamiamo devices, però poi gli ascoltatori giustamente dicono: ma perché dovete chiamiamoli terminali, dispositivi? Dispositivi, no? Sì. Beh, in realtà due cose principali. La prima è che in realtà è l'esperienza dell'utente a essere guidata da Windows 10 o essere abilitata, agevolata da un sistema operativo, indipendentemente dal fatto che la mattina utilizzi un PC in ufficio, se sei in giro utilizzi uno smartphone e magari a casa in soggiorno la sera utilizzi un Xbox. E quindi avere un sistema operativo universale che percorre tutta la tua vita digitale significa per l'utente un'esperienza più continua, più semplice, più compatibile. Certo. Dall'altra parte significa che tutti gli sviluppatori che nei mesi precedenti e nei prossimi mesi, nei prossimi anni vorranno sviluppare un'applicazione, svilupperanno un'applicazione per un unico store, il Microsoft Store, che sarà universale per i dispositivi e avranno la possibilità di sviluppare quelle che noi chiamiamo applicazioni universali, che sono identiche su tutti i dispositivi. Ovviamente l'interfaccia viene rivista per la dimensione dello schermo, ma non nessuna funzionalità è diversa se la utilizzo su un tablet, su un telefono. Quindi questo vuol dire che sempre più, già lo stiamo vedendo, si parla di app anche nel mondo desktop e non più di programmi. Sì, è esattamente così, anche perché con Windows 10 anche quelle che oggi sono delle applicazioni per il web, quindi le applicazioni che io trovo navigando su internet, saranno all'interno dello store e quindi anche per tutti quegli sviluppatori web avranno la possibilità di essere molto più visibili, di arrivare a molto più facilmente agli utenti, perché lo spazio è unico, è univoco, e a questo punto l'utente avrà una disponibilità di un'applicazione anche sul desktop, che però aprirò perché sto utilizzando un desktop in modalità finestra, in modo che non sia invasivo sul mio modo di lavorare tradizionale, che vuole il desktop sempre sotto gli occhi. Senti, se uno non ha un collegamento ad internet, come fa ad aggiornare la sua attuale versione di Windows a Windows 10? C'è una modalità? Per esempio, in Italia potrei suggerire che in tutti i punti vendita Unieuro e nella maggior parte dei punti vendita Euronics è disponibile un servizio di installazione di Windows 10 per i clienti, e consiglio di consultare i siti di queste due importanti catene per maggiori informazioni. Da un amico, perché se uno non ha internet non può consultare il sito, però diciamo si informa. Certo. Molto bene, io ringrazio Evita Barra, che in questi giorni sarà particolarmente impegnato, insomma più del solito, anche in un periodo dove uno potrebbe giustamente pensare anche alle vacanze, ma come al solito diciamo che negli Stati Uniti tira tutta un'altra aria, non è aria di vacanza luglio-agosto, giusto? Giusto, è il sud Europa essere in aria di vacanza, esatto. Grazie e buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro e saluto a tutti. Chiudiamo questa puntata parlando della radio digitale. Da un po' di tempo non ne parliamo, molti dei nostri ascoltatori sapranno, o se non lo sapete ve lo dico, adesso, in Italia esiste oramai una copertura della radio digitale molto ampia. Che cosa significa? Nuove antenne, nuovi segnali che si stanno affiancando all'FM, che permettono soprattutto in mobilità, quando si è in automobile, di ascoltare la radio senza alcun disturbo, un segnale perfetto in tutta la zona coperta. Allora, la copertura è molto ampia, ci sono, poi ne parleremo tra poco, ci sono anche alcune novità degli ultimi giorni e, come sempre faccio, vi invito a, quando dovete acquistare una nuova automobile, ad acquistarla con la radio digitale. Una volta veniva definita solamente DAB, oggi è stata definita Digital Radio anche in Italia. Parliamo delle novità con Sergio Natucci, che è il direttore operativo del Club DAB Italia, il consorzio di cui fa parte anche Radio 24. Natucci, bentornato a 2024. Salve, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Partiamo dalle novità che riguardano proprio questi ultimi giorni che arrivano dall'autorità delle comunicazioni. Perché sono importanti? Quali sono queste novità? Ma le novità sono molteplici, prima di tutto quella politica della volontà dell'autorità di proseguire nella pianificazione del territorio italiano e quindi di garantire uno sviluppo ormai certo e oltre il punto di non ritorno della radio digitale. Nel concreto l'autorità ha compiuto un atto importantissimo: dopo 25 anni sono stati finalmente definiti i bacini per l'emittenza radiofonica locale, questa volta in tecnica digitale, ma comunque è un risultato straordinario. Ci sono voluti 25 anni, sono circa 40 i bacini in cui viene suddiviso tutto il territorio nazionale, dicevo, per l'emittenza locale. Le altre due novità sono il fatto, altrettanto rilevanti, sono il fatto che si pianificano e quindi si danno i diritti d'uso, si fa un'attività definitiva di diffusione, le zone della Toscana orientale, della provincia di L'Aquila e della Sardegna orientale. L'ultimo, un segnale altrettanto importante, a settembre si rivedranno alcuni parametri per permettere la pianificazione di alcune vaste aree del sud Italia. Ecco, questi sono, come dicevi, giustamente, segnali politici. Nonostante ciò, quindi anche anticipando questi provvedimenti, il Club DAB Italia, quindi il consorzio del quale fa parte Radio 24, ma diciamo quasi tutti i player, le grandi radio nazionali, hanno coperto buona parte del territorio. Grosso modo, oggi a che livello di copertura siamo? Siamo intorno al 70% di copertura, con circa 4.500 km di strade e anche di autostrade ovviamente, e con un segnale in isofrequenza che in qualche modo è fruibile su gran parte dell'Italia centrale e dell'Italia del nord. Manca gran parte del sud, che speriamo sia tra i progetti, ma insomma ce l'auspichiamo con ragionevole certezza che sia nei progetti dell'Agicom per la fine dell'anno. Non siamo presenti in Sardegna e quindi la delibera appena approvata ci permetterà di approdare anche nella meravigliosa isola del nostro Tirreno. A proposito di radio locali, il provvedimento di questa settimana significa che presto anche le radio locali potranno trasmettere sulla radio digitale? Sì, certo, come sta e come dovrebbe avvenire rapidamente in Piemonte e in Umbria. In Piemonte credo, mi risulta, costituite 4 operatori locali, 4 società consortili che raggrupperebbero circa 48-50 emittenti, altrettanto in Umbria, che sono state pianificate all'inizio di questo anno, sono presenti anche in questo territorio circa 30 emittenti locali, oltre a quelle del Trentino e dell'Alto Adige, quindi è un passo in avanti importante per l'emittenza locale, che in molte zone chiede con insistenza l'accesso a questa nuova tecnologia come elemento di futuro, di sviluppo, di consolidamento delle proprie aziende. Molto bene, siamo contenti di questa novità, grazie a Sergio Natucci per questo aggiornamento. Sicuramente, insomma, torneremo anche in autunno a parlare di radio digitale. A presto e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi e buon ascolto sulla radio digitale. Beh, io sono un utente molto molto soddisfatto. Sulla mia automobile c'è una radio digitale e l'ascolto è veramente straordinario, senza interruzioni, bellissimo, molto bello, molto bello. Poi c'è anche qualche canale in più, quindi con altri tipi di musica rispetto al classico utilizzo della radio. Poi se facciamo un salto in avanti di 10 anni, beh, probabilmente fra 10 anni la concorrenza alla radio tradizionale della radio on demand in podcast sicuramente sarà molto forte, ma ci sarà un po' di tempo, eh? Oggi godiamoci la radio digitale, come avete sentito, con una copertura molto ampia. Prossima automobile compratela sicuramente con la radio digitale, e se il concessionario non ve la vuole dare gratis, chiamatemi, chiamo io il concessionario e vi faccio fare lo sconto. Allora, chiudiamo questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Avevamo preparato anche la voce del professor Stefano Rodotà, perché questa settimana è stata presentata la dichiarazione dei diritti in internet. Allora rimandiamo di qualche giorno, cerchiamo magari tra qualche settimana, dopo il clou delle vacanze estive, una voce pro e una voce contro, perché io tendenzialmente non è che sono tanto pro, nel senso che penso che sia abbastanza inutile fare una dichiarazione dei diritti in internet se poi non si pensa a come mettere in pratica questi diritti, come garantire questi diritti. E troppo spesso si fanno dichiarazioni senza poi pensare alle conseguenze. Tuttavia ammetto e riconosco che ci sono delle buone ragioni anche per i pro, e allora in un modo molto neutrale cercheremo di sentire chi ha partecipato anche ai lavori di questa commissione che ha presentato i lavori questa settimana, e chi invece dice, come dico io, che insomma questo, tutto ciò è molto poco utile. Cito solo l'articolo 2, che è emblematico di quello che ho detto: diritto all'accesso. L'accesso ad internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Ogni persona ha uguale diritto di accedere a internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. L'articolo è perfetto in linea teorica, però poi se il governo dorme e non fa nulla perché sta brancolando, non dico nel buio, ma sicuramente sta brancolando nella luce di quelli che hanno fermato lo sviluppo della rete internet in Italia, beh, è inutile fare la dichiarazione dei diritti in internet se poi dall'altra parte il governo sta fermo in poltrona. Vabbè. Bene, tutto per questa puntata, torniamo la prossima settimana. Grazie a tutti e buone vacanze a chi fa vacanza, buon lavoro a chi lavora. 2024.